fotografi, giornalisti per la... Ad alta voce, Rolando Ravello legge Il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald, traduzione di Tommaso Pincio. Dopo 2 anni ricordo il resto di quel giorno e quella notte e il giorno che seguì soltanto come un andirivieni infinito di polizia e fotografi, giornalisti per la porta d'ingresso di Gatsby. Una corda stesa lungo il cancello principale e un agente piazzato davanti tennero a distanza i curiosi, ma i ragazzini ci misero poco a scoprire che potevano entrare passando dal mio giardino. Per cui ce n'erano sempre un bel po' ammassati nei pressi della piscina a contemplare a bocca aperta la scena. Un individuo dai modi risoluti, forse un detective, usò l'espressione pazzo nel chinarsi sul corpo di Wilson quel pomeriggio, e l'autorità avventizia della sua voce decise il tono dei resoconti giornalistici del mattino dopo. Quegli articoli erano per lo più un incubo, grotteschi, circostanziati, a tinte forti e non veritieri. Quando la testimonianza di Michaelis portò alla luce durante l'inchiesta i sospetti di Wilson sulla moglie, pensai che l'intera vicenda sarebbe stata presto ammannita come una piccante pasquinata. Ma Catherine, che avrebbe potuto dire qualcosa, non disse una parola. Sfoggiò anzi una forza di carattere inaspettata. Fissò il coroner con occhi determinati da sotto quelle sue sopracciglia rifatte e giurò che sua sorella non aveva mai visto Gatsby, che sua sorella era assolutamente felice con il marito, che sua sorella non si era mai concessa scappatelle di alcun tipo. Si convinse di quel che diceva e pianse nel fazzoletto come se la sola ombra di un dubbio le risultasse intollerabile. Wilson fu così ridotto a un uomo sconvolto dal dolore, affinché il caso restasse nei binari della soluzione più semplice, e lì si fermò. Ma tutto questo lato della faccenda sembrò remoto e superfluo. Mi ritrovai dalla parte di Gatsby, e da solo. Dal momento in cui annunciai per telefono la notizia della catastrofe al villaggio di West Egg, ogni congettura sul suo conto e ogni questione di ordine pratico fu addossata a me. Da principio restai stupito e confuso. Poi, mentre lui giaceva nella sua casa senza muoversi, né respirare né parlare, ora dopo ora maturò in me l'idea che dovessi farmene carico io, perché a nessun altro interessava. E quando dico interessava, mi riferisco all'intenso interesse personale a cui chiunque, alla fine, ha un qualche diritto, seppur vago. Chiamai Daisy mezz'ora dopo che trovammo il suo corpo. La chiamai distinto e senza esitazione. Ma lei e Tom se n'erano andati nel primo pomeriggio con tanto di bagagli. Hanno lasciato un indirizzo? No. Hanno detto quando sarebbero tornati? No. E non avete nessuna idea di dove siano, di come possa rintracciarli? Non so, non saprei dire. Volevo che qualcuno gli facesse visita. Volevo entrare nella stanza dove giaceva e rassicurarlo. Ti porterò qualcuno, Gatsby, non preoccuparti. Non è che da fidarti di me, ti porterò qualcuno. Il nome di Meyer Wolfsheim non era sull'elenco del telefono. Il maggiordomo mi diede l'indirizzo del suo ufficio su Broadway e chiamai il servizio informazioni, ma ottenni il numero quando le 5 erano passate da un pezzo e non rispose nessuno. Potete fare un altro tentativo? Ho già provato 3 volte. È molto importante. Mi spiace, temo non ci sia nessuno. Tornai in soggiorno e per un istante pensai che fossero visitatori accidentali tutti quei funzionari di polizia che d'un tratto riempirono la stanza. Ma quando scostarono il lenzuolo e guardarono Gatsby con occhi indifferenti, la sua protesta riprese a farsi sentire nel mio cervello. «Ascolta, vecchia Lenza, devi portarmi qualcuno. Ti ci devi mettere d'impegno. Non posso affrontare questa cosa da solo». Qualcuno cominciò a farmi delle domande, ma io mi allontanai e salì di sopra per rovistare frettolosamente nei cassetti non chiusi a chiave della scrivania. Non mi aveva mai detto in termini definitivi se i suoi genitori erano morti. Ma non c'era nulla, soltanto la foto di Dan Cody, un segno di violenza dimenticata che mi fissava dall'alto della parete. Il mattino seguente spedii il maggiordomo a New York con una lettera per Wolfsheim, nella quale chiedevo informazioni e gli raccomandavo di venire col prossimo treno. La richiesta mi parve superflua mentre scrivevo. Ero certo che sarebbe partito non appena avesse visto i giornali, così come ero certo che sarebbe giunto un telegramma di Daisy prima di mezzogiorno. Ma non arrivarono né il telegramma né il signor Wolfsham. Non arrivò nessuno, se non altri poliziotti, altri autofotografi, altri giornalisti. Quando il maggiordomo tornò con la risposta di Wolfsham, cominciai ad avvertire un moto di ribellione, disprezzante solidarietà tra Gatsby e me uniti contro tutti loro. Gentile signor Carraway, è stato uno degli shock più terribili della mia vita. Stento a credere che sia potuto accadere davvero. Atti di follia come quello commesso da quest'uomo dovrebbero indurci a riflettere. Al momento non ho modo di venire, poiché mi trovo bloccato da un affare importante e non posso immischiarmi in questa faccenda. Se c'è qualcosa che io possa fare più in là, mi scriva tramite Edgar. Non so più in che mondo vivo quando sento cose simili. Mi sento distrutto, messo al tappeto. Cordialmente, Meyer Wolfsham. E poi più sotto una postilla sbrigativa. Mi faccia sapere del funerale, eccetera. Non so nulla della sua famiglia. Quando il telefono squillò quel pomeriggio e l'operatore disse che c'era una chiamata da Chicago, pensai che alla fine Daisy si fosse fatta viva. Ma fui messo in comunicazione con una voce maschile molto stridula e lontana. «È Slagle che parla?» «Sì?» Il nome mi era estraneo. «Un casino da niente, eh? Ricevuto il mio telegramma?» «Non è arrivato nessun telegramma. Il giovane Park è nei guai», disse in fretta. «L'hanno beccato mentre passava i titoli fuori borsa. Solo 5 minuti prima avevano ricevuto una circolare coi numeri da New York. Che ne sai tu di questa storia, eh? Non si può mai essere sicuri di niente in questa città di bifolchi.» «Pronto?» Lo interruppi col fiato sospeso. «Statemi a sentire, non sono il signor Gatsby. Il signor Gatsby è morto.» Ci fu un lungo silenzio all'altro capo del filo, seguito da un'esclamazione. Quindi un rumore secco troncò la comunicazione. Credo fossero passati 3 giorni quando da una città del Minnesota arrivò un telegramma firmato Henry C. Getz. Diceva soltanto che il mittente stava partendo subito e di posporre il funerale fino al suo arrivo. Era il padre di Gatsby. Un vecchio austero, parecchio scorato e sgomento, infagottato in un lungo cappotto da 4 soldi, benché fosse una tiepida giornata di settembre. I suoi occhi lacrimavano senza posa per l'emozione e quando gli presi borsa e ombrello dalle mani cominciò a tirarsi con tale insistenza la barba grigia e rada che ebbi qualche difficoltà nel fargli togliere il soprabito. Era sul punto di avere un collasso. Così lo condussi in salotto e lo feci sedere mentre ordinavo qualcosa da mangiare. Ma lui non voleva mangiare e un po' di latte cadde dal bicchiere che teneva con mani tremanti. «L'ho visto sul giornale di Chicago», disse. «C'era scritta ogni cosa sul giornale di Chicago. Sono partito subito. Non sapevo come raggiungervi. I suoi occhi, che non vedevano alcunché, non cessavano di muoversi per la stanza. Era un pazzo», disse. «Doveva essere impazzito. Volete un po' di caffè?» suggerì. «Non voglio nulla, sto bene così per il momento, signor Carraway.» «Beh, sto bene così. Dove hanno portato Jimmy?» Lo accompagnai nello studio, dove giaceva suo figlio, e lo lasciai lì. Qualche ragazzino aveva salito la scalinata e stava sbirciando all'interno dell'atrio. Quando dissi loro che era arrivato, se ne andarono contrariati. Poco dopo, il signor Getz aprì la porta e uscì, la bocca socchiusa, il volto appena arrossato e rigato da lacrime che gli colavano solitarie e discontinue. Aveva raggiunto un'età in cui la morte non costituiva più una sorpresa spaventosa. E adesso che si guardava attorno per la prima volta e vedeva l'altezza e lo splendore dell'atrio e le grandi stanze che si aprivano su altre stanze, il suo dolore iniziò a mischiarsi con un orgoglio intimorito. Lo aiutai a salire in una delle stanze da letto del piano superiore. Mentre si toglieva giacca e panciotto, gli dissi che tutti i preparativi erano stati rinviati al suo arrivo. «Non sapevo cosa voleste fare, signor Gatsby.» «Mi chiamo Getz, signor Getz. Pensavo voleste portare il corpo nell'ovest.» Scosse il capo. «Jimmy ha sempre preferito l'est. È nell'est che si è fatto una posizione. Eravate un amico del mio ragazzo, signor... Era un caro amico. Aveva un grande futuro davanti, sapete? Era soltanto un giovanotto, ma aveva un sacco di materia grigia qui dentro.» Si toccò il capo con solennità e io annuì. «Avesse vissuto più a lungo, sarebbe diventato un grand'uomo. Un uomo come James J. Hill. Avrebbe dato il suo contributo alla crescita di questo paese.» È vero, dissi imbarazzato. Armeggiò con il copriletto ricamato nel tentativo di toglierlo e si distese tutto irrigidito, addormentandosi all'istante. Quella notte una persona evidentemente spaventata chiamò e chiese con chi stava parlando prima di dire il proprio nome. «Sono il signor Carraway». «Ah», sembrava sollevato. «Sono Clip Springer». Fui sollevato anch'io, perché la telefonata sembrava promettere la presenza di un amico in più alla tomba di Gatsby. Non volevo mettere un annuncio sui giornali per non trascinare una folla di curiosi. Così avevo telefonato a qualche suo conoscente per conto mio. Erano difficili da scovare. «Il funerale è domani», dissi. «Alle 3 qui in casa. Mi piacerebbe lo faceste sapere a chiunque sia interessato». «Oh, lo farò senz'altro», interloquì frettoloso. «Certo è improbabile che veda qualcuno, ma se dovesse capitare...» Il tono mi insospettì. «Voi ci sarete, ovvio». «Beh, ci proverò, certo. La ragione per cui chiamavo era...» «Aspettate un attimo», lo interruppi. «Perché invece non mi confermate che verrete?» «Beh, il fatto è... La verità è che sono con certe persone qui a Greenwich e si aspettano che resti con loro domani. In effetti c'è una specie di picnic, ma farò del mio meglio per liberarmi, non dubitate». Proruppi in un... «Ah!» smodato, e lui dovette udirmi perché proseguì nervoso. «La ragione per cui chiamavo era un paio di scarpe che ho dimenticato lì. Mi domandavo se non fosse troppo disturbo farle spedire dal maggiordomo. Vedete, sono scarpe da tennis e non so come fare senza. Il mio indirizzo è presso BF...» Non sentii il resto del nome perché riattaccai il ricevitore. Dopodiché provai una certa vergogna per Gatsby. Un galantuomo cui telefonai lasciò intendere che aveva avuto quel che si meritava. Comunque fu colpa mia, perché costui era tra quelli che lo schernivano con maggiore asprezza, attingendo il coraggio proprio dal suo alcol, e io avrei dovuto pensarci bene prima di chiamarlo. La mattina del funerale andai a New York per vedere Meyer Wolfsham. Pareva non potessi raggiungerlo in altro modo. La porta che aprì su indicazione di un ragazzo dell'ascensore recava impresso «The Svastika Holding Company», e in un primo momento ebbi l'impressione che nell'ufficio non ci fosse nessuno. Ma dopo aver gridato diverse volte invano «Salve», udii scoppiare una discussione dietro un pannello divisorio, e subito dopo un'incantevole donna ebrea apparve sulla soglia di una porta interna e mi scrutò con occhi neri ostili. «Non c'è nessuno», disse. «Il signor Wolfsham è andato a Chicago». La prima delle due affermazioni era in tutta evidenza falsa, perché lì dietro qualcuno aveva cominciato a fischiettare in maniera stonata The Rosary. «Ditegli per favore che il signor Carraway vuole vederlo». «Non posso mica farlo tornare da Chicago, vi pare?» In quel momento una voce, senza ombra di dubbio quella di Wolfsham, gridò «Stella!» dall'altro lato della porta. «Lasciate il vostro nome sulla scrivania», disse lei alla svelta. «Glielo darò appena rientra». «Ma io so che c'è». Fece un passo verso di me e con aria indignata cominciò a lisciarsi i fianchi con le mani. «Voi giovanotti credete di poter entrare qui dentro come quando vi pare», mi redarguì. «Ne stiamo avendo abbastanza di voi altri. Quando dico che lui è a Chicago, è a Chicago!» Feci il nome di Gatsby. «Oh», mi fissò di nuovo. «Volete solo... come avete detto di chiamarvi?» Si dileguò. In un attimo un solenne Meyer Wolfsham si materializzò sulla soglia tendendo entrambe le mani. Mi trascinò nel suo ufficio, rimarcando in tono ossequioso che era un momento triste per tutti, e mi offrì un sigaro. «Torno coi ricordi a quando lo incontrai per la prima volta», disse, «un giovane maggiore appena congedato dall'esercito e ricoperto di medaglie guadagnate al fronte. Era così squattrinato che dovette seguitare a indossare l'uniforme perché non poteva comprarsi abiti civili. La prima volta che lo vidi fu quando entrò nella sala da biliardo di Weinbrenner sulla 43esima strada. E chiese un lavoro. Non mangiava niente da un paio di giorni. «Venite a pranzo con me», dissi io. In mezz'ora mangiò per più di $4. «Lo avete iniziato voi agli affari?» domandai. «Iniziato? L'ho forgiato con le mie mani. Ah, l'ho tirato su dal nulla, l'ho tolto dalla strada». Ho capito subito che era un giovanotto di classe e raffinato, e quando mi disse che era stato a Oxford, mi sono convinto che poteva tornarmi utile. Lo feci entrare nella legione americana, dove l'hanno tenuto sempre in grande considerazione. Subito dopo fece qualche lavoretto per un mio cliente, su ad Albany. Eravamo uniti in tutto, appiccicati così. Sollevò due dita bulbose, sempre insieme. Mi domandai se questa alleanza avesse incluso anche l'affare delle World Series del 1919. «Adesso è morto?» dissi un attimo dopo. Voi eravate uno dei suoi amici più cari, per cui immagino che vorrete venire questo pomeriggio al suo funerale. Mi piacerebbe. Beh, quando è così, venite. I peli nelle sue narici tremolarono leggermente, e mentre lui scuoteva il capo, gli si riempirono gli occhi di lacrime. Non posso. Non posso immischiarmi in questa storia, disse. Non c'è nulla in cui immischiarsi, è tutto finito ora. Quando un uomo viene ucciso non mi piace essere immischiato in nessun modo, mi tengo alla larga. Quando ero giovane era diverso, se un amico moriva, non importa come, non mi staccavo da lui fino all'ultimo. Magari voi penserete che sto facendo lo sdolcinato, ma parlo sul serio. Non mi scollavo fino all'ultimissimo istante. Capii che per qualche ragione era determinato a non venire. Così mi alzai. «Avete studiato all'università?» domandò d'improvviso. Per un attimo credetti che stesse per propormi un aggancio, ma si limitò ad annuire col capo e stringermi la mano. «Dobbiamo imparare a dimostrare la nostra amicizia quando l'amico è ancora vivo, e non dopo che è morto», raccomandò. «Dopodiché, la mia regola è di lasciare le cose al loro corso». Ad alta voce. Rolando Ravello ha letto Il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini e Chiara Valenti.